Mari. Está baba. Ya dormita sí. Ya. Dormita sí. Cosa sta facendo? Guarda, mi senti? Un attimo, Gio Mari, che hanno suonato. Ehi, Gio Mari, cos'è? Che Mari? Cosa c'è? Ti stava cercando Luca. Non ti ha già compreso, no? Ti stava cercando Luca. Non ti buoni apparecchi, no? Ah. Niente se volevo. Se avevi qualche alimentatore. Non ne ho alimentatore, già lo sai, tu. Quello che ho sono me le tengo, capito? Non ne ho nulla. Diglielo pure se lo senti. Eia, va bene. Vabbè, cosa stai facendo? Mi sto mettendo a posto il terrazzo che ho finito con l'antenna, c'ho tutti i fili, filini, casino in terra. Vabbè, qua da Geggio non è arrivato. No, ho aperto appunto la cosa. La controversia e mi hanno detto che prima del 2 però no, ancora non si può fare niente. Infatti dovrai dire a fare. Se mai c'è cosa non arrivi mai, infatti dovrai dire a... No, perché a loro risulta che è già arrivato, capito? Se poi il corriere o la posta non l'ha consegnato ancora, a loro gli risulta che è qua. Ma mi sembra strano che stanno camminando qua i corrieri e ti bara a te. Già che all'inizio hanno detto che era smarrito questo pacco, mi pare strano, Loro mi hanno detto che il pacco è già qua. Di avvicinarmi un po', sai, io qua non posso uscire, non possiamo muoverci per via del coronavirus. Basta sapere chi è, a chi l'hanno dato e si può anche telefonare. Alle poste. Ah? È la posta che lo porta. Ah, la posta, peccato. Vabbè. Ehi, arrangiati. Io non ci posso ancora fare, non ci potrei fare niente lo stesso, capito? Non ci posso fare, no, anche se chiamo, cioè anche se ci vado, non me ne possono dare a me informazioni. Qualcosa ci deve essere, no? Non è che tu pigli la cosa, paghi, no? E la questione non si vede, non è anche giusto, no? No, non hai capito, Gio Mari. Io, anche se ci vado, siccome l'indirizzo non è questo, ma lo sai che arriva alla mia vicina, loro non me ne possono dare informazioni. Non lo so. Vabbè, pensaci tu a queste cose, dai, io non lo so, non ci posso dire niente, perlomeno quello che so ti ho detto, lui, pensaci tu. Perché finché il pacco è a nome mio, capito, e nell'indirizzo mio, ok, ma lo sai che l'indirizzo non è il mio, che li ritira la mia vicina i pacchi, non è che posso dire alla mia vicina, vai in posta, cercami il pacco, già mi fende rubiazzeri. Ma così, quell'altro invece che è stato chiesto da dopo un mese è arrivato in pochi giorni. A quanto dicono loro è già qua. Hanno detto sicuramente è fermo alla posta per qualche motivo, perché con gli sdoganamenti adesso e tutte queste cose qua. Però intanto io continuo con la mia strada da bui, forse a niente. Sì, vabbè, ma le maleate, i soldi te ritornano, no? Per forza, capito. Però fino al 2, al 3, al 2, al 3 non possiamo fare niente, come dicono le regole di eBay. Vabbè, va. Va buono, va bene. Perché il primo passaggio che ti fanno fare è contattare il venditore e poi ti dicono che se entro una tale data di contattare di nuovo a loro, capito? Stavo dicendo, ma ce l'hai il giudizio dell'ultimo che hai ordinato? Ma di quello che deve arrivare? L'ultimo che abbiamo ordinato. Ah, quello che hai già. Eia, c'è l'indirizzo di quello? L'indirizzo? Adesso ci guardo. hai capito? No, non sei uscito. Ho detto che c'è un amico mio che gli interesserebbe uno preciso. Ah, e adesso te lo mando lo link. No, se c'è l'indirizzo a quello lì, glielo dico e se lo vuoi glielo teniamo. Ma Giammarì, guarda, te l'ho detto l'altra volta anche. E stanno controllando e dobbiamo cambiare il coso. Bisogna fare una posta IP tua, capito? Al massimo lo sto facendo a te, ma dobbiamo cambiare, capito? Perché stanno facendo controlli con questi cosi qua. E se lo vedi da poi tutta la roba che so con gli nendi. Ah, così. E come si può fare allora? A fare il nome mio? Tu a nome tuo fai la carta alla posta, capito? Non devi fare niente, devi farti la carta alla posta. Poi agli ordini ci penso io, capito? Basta dimmi come fare. Vabbè, bisogna farla in verticale, va. Sì, bisogna andare in posta, capito? Con i documenti e basta. Alle poste bisogna andare. Sì, va, alle poste ci vuole fare la posta IP, basta. Ti chiedono i tuoi documenti e te la prepara. Sì, vabbè, già ne parliamo, va. Poi al resto ci penso io, capito? Però bisogna farla a tuo nome, sennò è un casino per me. E a quello lì, se lo vuole, io quello che c'ho io. Ehi, fai così. Va bene, va bene. D'accordo, Lu. Vabbè, ci sentiamo, Lu. Ehi, Giovanni, ti sto cercando il link, così glielo mandi. E lo stai mandando? Il link ti sto mandando del negozio. Sì, non mi interessa almeno, non mi interessa. Così, no, per fare l'ordinare a quello lì, capito? Non per altro, a me cosa mi interessa? Lui non se lo può ordinare, perché? Per i link, chi si buro? Ho capito. Va bene. E questo bene sta andando? A voglia. Va bene. Vabbè, ci sentiamo lui allora. Buon procedimento, mi raccomando, pulisci bene quel terrazzo. Stata, un po' di casino. Una volta che devi fare una cosa ne metti in giro 100. Già lo grido. Ah, Luca, se lo vedi, non li ho il messaggiatore io, capito? Sono io l'avrei dato. Gli ho mandato il messaggio. Poi c'è il numero del telefono, potrebbe telefonare. Mi ti ho mandato un video. Aspetta, te ne mando altro. Vai, va. Vai, manda. E beh,